si svena e praticamente con le venature poi si allargano sempre di più e poi si spacca, e quello è il capito. Adesso il materiale non è più come quello di prima, quello di prima era un materiale buono e duravano, anzi prima mettevano le catene di distribuzione, addirittura nella 500 c'era la catena, nella Alfa Romeo c'era la catena, adesso mettono le cinghie, capito? Sì, oggi sono tutta questione di cinghie, infatti tutto un latte oggi. Sì, prima si usavano le catene, era diverso, era più difficile che si rompesse la distribuzione. Non so cosa dire. Comunque mi informo, ci mancherebbe altro, soprattutto per la Ford, perché quella è nuova, la macchina, capita, e poi quella deve essere sempre in ultimo stato, come la mia, io stesso è sempre in ultimo stato, però quella la usa quasi giornalmente mia figlia per andare fuori di Sassari per lavoro, a Alghero, a Tirgo, a Osilo, a Aulestano, dappertutto insomma, a Olbia, pure a Cagliari esiste, anche a Cagliari ci è uscita tante volte, non una volta, tante volte, però giornalmente spesso a Tirgo e a Osilo, perché lavoro in comune, sia in un posto per l'altro, capito? Sì, ho capito. Vabbè, quella lì se non c'ha gli anni o i chilometri, quella lì quanti chilometri c'ha quella di tua figlia? Intorno ai 45.000. Vabbè, ancora non è arrivata, perché se c'è 4 anni e mezzo, ancora 5 anni non ce li ha. E non c'ha manco i chilometri, quindi non dovrebbe essere problematico quello. Infatti è la tua, perché con 15 anni l'avresti dovuta cambiare già 3 volte, la cica di distribuzione, non ti dico asso. Vabbè, non la devo attendere, se vuol dire, la uso poche volte, la uso quando devo ad esempio andare a comprare l'acqua minerale per casa, vado, faccio il carico, di solito vado lì alla Piazzetta, che è molto fornita come acqua, e trovo tutto, perché io prendo tre tipi di acqua, l'acqua per cucinare, l'acqua stamattino e l'acqua panna prendo, per cui tre tipi di acqua, e quando vado una quindicina di confezioni in tutto, e dunque, e poi anche altre cose, dai, quando devo fare qualche commissione che devo caricare eccetera, uso sempre la mia praticamente, perché sono tutte cose, commissioni che faccio durante il giorno, quando proprio mia figlia è a lavoro, se che no, vabbè, comunque mi informerò, dai. E vabbè, io te l'ho voluto dire perché anche io non ero al corrente, è da poco che lo so. Te l'ho voluto dire perché? Perché può succedere da un momento all'altro si faccia, anzi tu l'hai fatta durare un bel la ciglia. L'hai fatta durare 3 volte di più. Sì, però ripeto, io l'ho controllata anche da poco tutta quanta, perché se tu vedi il motore mio è pulitissimo, dentro non c'è niente, ossia che ci sia una perdita d'olio, nulla, tutto a posto in ordine, la metto in moto, ogni 2-3 giorni la metto in moto, tutto per evitare che si guardi la batteria, perché l'ho già cambiata proprio per quel motivo lì, perché non la usavo, e allora ho anche dato un'occhiata alla cinghia, ma per quanto ne so io, per quanto ne capisco io, ho visto che è abbastanza integra, no? Non c'è niente, non c'è nessuna cosa, diciamo, dai, è proprio nuova, poi se vuole cambiarla non lo so, chiederò a Franco comunque già, comunque hai fatto bene a avvisarmi, hai fatto bene. Sì, sì, ma perché si vede la cigare distribuzione, la invece il carter lo si vede, no? Già si vede, sì, no, non molto, ma già si vede, un pezzetto se ne vede, per cui è larga, saranno 4 cm di larghezza, sarà una cosa del genere. Sì. Se vai alla Fiat per cambiarla ci vogliono 500 euro, da Franco mi prende 2,60 e me la mette in lavoro, me lo fa sempre bene. Sì, io vado sempre da Franco, io non l'ho mai fatto un tagliando alla Citroen, non l'ho fatto mai niente, ho solo fatto i cosi, i tagliandi della Ford alla Ford, quello sì, perché era così, perché era per una questione di garanzia eccetera, no? Perché dicevano se tu fai il tagliando da un'altra parte, poi dovesse succedere qualcosa, prendi la garanzia, e allora tutti i tagliandi li ho fatti alla Ford, però d'ora in avanti, per qualsiasi altro motivo, mia non ha mai vista la Citroen. Una volta sono andato alla Citroen per comprare quelle due guarnizioni che ci sono sul tettuccio. Ci sono due guarnizioni che sono praticamente di plastico, di gomma, guardate. Sono andato a comprare quello perché una si era staccata, si era. E volevano 115 euro per comprare due guarnizioni. Ma vai a perdere. Ha già buttato un po' di silicone e va meglio di come la prima, perché non si muove. Quando era nuova si spostava così tranquillamente, perché era fatta in un modo che si filava tra la lamiera del tettuccio, no? E invece ha buttato un po' di punti di silicone, l'ho incollata, boh, non si muove più, tranquillo e pacifico. Ci vuole, perché se capita che metto l'imperiale è necessario che ci sia quella guarnizione lì, capite? Vabbè, certo, ma cazzo, cioè due mesi di pratica di rimanere pagato così tanto, boh. No, ma non conviene andare da un meccanico normale. Naturalmente deve essere un meccanico di fiducia, che lavori bene, che sia onesto, ecco, quello franco, ti fa pagare il giusto. Ha telefonato davanti a me. 116 costava il pezzo, tutto il kit, con il cuscinetto, mi ha detto 100 euro di manodopera, perché ci vuole lavoro, bisogna svoltarne tutto. Mi ha preso 100 euro di manodopera e 160 euro il pezzo. Sì, beh, certo, è chiaro, sì, lo so, no, ma poi Franco già lavora bene, già lo conosco da tantissimi anni, io mi sono sempre servito da Franco e lui si è sempre servito da me, sia lui che la famiglia sua, i genitori, eccetera, no? Gli avevo fatto tutto, porte, finestre, portoni, tutto quanto gli avevo fatto, anche mobili gli avevo fatto a casa della madre, tutte queste cose qua. A Franco addirittura c'è una specie di ufficetto su, quando lui sale su, e gli avevo fatto io l'ufficetto lì, senza nemmeno fare preventivo né niente. Quando ho finito il prezzo che gli ho chiesto, non ha aperto bocca, me la lascia tranquillamente, come vado io, quando vado io non è che gli chiedo quanto mi prendono, mi deve fare questo, e poi quando vado quanto ti devo dare, ecco, pronti, non è che sto lì a tirare, a fare, no, comunque tra me e Franco queste cose non succederanno mai. L'altro giorno ho pagato 240 euro per cambiare questo galleggiante della benzina che ti stavo dicendo, ma tutto a posto, tranquillamente. E ma a volte sono i pezzi che costano tanto, capito? Io ho cambiato una bobina delle candele, perché adesso le candele, prima ce n'era una per tutte le candele di bobina, adesso ce n'è una per ogni candela. Si è rovinata la bobina e non prendeva bene l'accelerata la macchina, l'ho portata a Franco e mi ha detto: già, c'è una bobina partita, bisogna cambiarla, e visto che cambiamo la bobina cambiamo anche tutte le candele, visto che non le abbiamo mai cambiate da quando è nuova la macchina. E così ho fatto, capito? Però sono il pezzo che ha cambiato la bobina, costava 160 euro. Beh sì, i pezzi costano tanto, soprattutto le macchine, delle macchine straniere costano un sacco di soldi, i ricambi, lo so già, purtroppo è così. No, Franco, devo dire, oltre al fatto che lavora molto bene, poi non è così esageratamente caro, non è la maniera più assoluta, è nella norma che lui, con la differenza che lui il lavoro se lo fa anche bene, oltretutto, magari può chiedere, che so io, 10-20 euro più del altro, però il lavoro è fatto, quando lo fa Franco è fatto il lavoro, Una volta sono andato a cambiare i freni e ho visto all'incuccio c'è quella del trotto e mi ha detto che c'aveva anche il meccanico e se vuoi te lo faccio fare stasera, gli viene il meccanico perché viene la sera, mi ha detto. Fammi di fare, visto che li devo fare, cazzo. Guarda, la cassonetta, buttarci la modezza, tiro il freno a mano, cazzo, la macchina te la pare di rasura, infarata e via Bonomba. Ho fatto il tempo in tempo a aprire lo sportello, cazzo, a tirare il freno. E cos'era? L'ho portata da Franco e mi ha detto, già non credo che lo frenava, da molto di freni a invece. No, io avevo cambiato le pastiglie, avevo cambiato le ruote di davanti, no? Perché dietro sono a ganasce, davanti invece sono pastiglie, no? Per cui a disco praticamente. E avevo pagato la miseria, me l'avevo fatto caro Franco, cioè me ne ero reso conto quando l'avevo portata alla revisione, e siccome l'ha tirata su la macchina, cambia nelle pastiglie. Ma prenderà bene? Sì, lo so che prenderà bene, però le pastiglie sono un po' consumate. Sono andato, oh, però come mi sono fatto cambiare? Però la macchina ormai era già passata, era in revisione, tranquillamente è passata, era già passata. Le pastiglie, io ce le ho tutte a pastiglie, ce le ho tutte a disco e felice, sia davanti che dietro. Una volta devo cambiare quello dell'avanti, una volta quello di dietro, sempre così succede, si consuma prima uno e poi l'altro. Sì, sì, sì. No, per quanto ne so io della mia, io sto parlando della mia, della piccolina, della macchina piccola, della C3. A dietro dovrebbe essere la garage, mentre davanti è a disco. Va bene, dell'altra non lo so, la verità, non me ne intendo, non mi sono. Una volta mi interessavo anche di queste cose. Tu pensa che una volta io a 1100 D che avevo tanti anni fa, ero giovane, avevo fatto riparto al motore tranquillamente e ci ho portato pure la macchina, dopo anni ce l'avevo portata al ferro vecchio per rottamarla perché mi ero stancato e avevo fatto riparto al motore io, tutto, completamente, con quattro chiavi che avevo in bottega e con il libretto di istruzione della Fiat, avevo fatto il riparto completo al motore, al 1100 D, era un trattore era quella macchina. Già me lo ricordo quella macchina. Poi ricordo l'Anglia, se la ricordi l'Anglia? A voglia, se non me la ricordo, altro che ce l'ho anche avuta, io ce l'ho anche avuta, penso un po'. Mentre invece il 1100 D aveva le marce al volante, già, al volante aveva le marce, il 1100 D. Sì, come il 1005 ce l'aveva, al volante. Sì, sì, me lo ricordo. Le ho conosciute quelle macchine, ho conosciuto la Prince, la Diana, la Diana 6, la 254, tutte quelle macchine le ho tutte conosciute. Ancora qualcuna si trova in giro, perché ci sono quegli appassionati che se le revisionano tutte e le fanno diventare nuove. Addirittura ho visto macchine su internet in vendita, non so se ne hai mai viste, di queste d'autosalone che le ripristina. Ci sono 112 che costano 12.000 euro, 13.000 euro. Le Porsche anche 120.000 euro, anche di quelle antiche, di quelle vecchie. Porsche tutto datate. Cazzo, le vendono a prezzi esorbitanti. Sì, sì, lo so, e beh, ci sono gli appassionati, ma poi io seguo anche molto spesso quella trasmissione su canale 59, che prendono delle macchine, fanno dal ferro vecchio alla revisione completa, totale, tu la vedi la macchina, te la fanno nuova, completa, giusto? Nuova, veramente, te la mettono in condizioni, anzi la modificano e da tante volte la fanno, anche meglio di quando l'aveva costruita la fabbrica, per dire, no? Lo so, certi macchinoni, belli, ma anche macchine italiane hanno fatto, non vengo di vedere sempre, quelle trasmissioni, canale 59, non mi ricordo come si chiama quella trasmissione, ma ci sono sempre, tutti i santissimi giorni. Trend. Sì, trend, sì, una cosa del genere, sì. Le ho viste anche io tante volte, anche su di Max li davano prima, poi hanno cambiato magari perché è la stessa catena. Le ho viste anche io. Guardavo anche quelle degli affari, eccetera, eccetera. Poi un po' mi sono scocciato perché non sapevo le stesse cose, non ho più guardato. Però quelli delle macchine mi piacciono, li guardo anche su internet. Quando restaurano le macchine, le moto, le guardo anche su internet. Sì, li guardo sempre, su YouTube poi ci sono anche delle donne che fanno questi restauri e sono bravissime veramente, ma non solo sulle macchine, su qualsiasi cosa. Uno una volta ha fatto un restauro a un orologio, è andato nel Mondezzaio, no, dove c'è la scarica della Mondezza, e ha trovato questo orologio, che se l'ha preso, l'ha fatto a pezzi, tutto quanto a pezzi, dentro era tutto pieno di fango, perché c'era il vetro rotto, eccetera, era dentro tutto pieno di fango, beh, ha smontato tutto, tutti i rubini, tutto quanto, l'ha fatto nuovo, ha rimesso il vetro nuovo, l'ha pulito bene come si deve, e l'ha riparato. Un orologio, ragazzi, che se lo vedevi, quello che fica, sembrava preso a martellate. Beh, l'ha messo a posto. Hanno questa passione, questa gente sono anche molto bravi a fare ricerche del sauro, capite? Mi piace far rinascere le cose. Gli danno vita di nuovo. Alla cosa morta gli danno la vita di nuovo. Avanti Natale. Eia, siamo qui, oh, yeah. Adesso il 23 mi tocca stare da solo, chissà quanto tempo mi tengono lì. Perché non viene fra? Vabbè, ma no, come fai? Lì lo lasci. Gli ho detto, tu mi accompagni da voi di Nandi e ti barigosi due, quando giù finito ti giamo. La giudizio. E cosa fai? E uno ha da fare le cose sue. Ah beh, quello sì. No, va bene così, dai Natalia. Va bene così. E tanto che stai seduto durante la futica, non ti chiamano inti. Ma tu, dai, io comunque me devo lasciare, devo farmi la terapia adesso. Già, ci sentiamo. Ho guardato l'orologio, sono già per il QSO, io ero sempre in ascolto e ho finito adesso di mangiare. Va bene, dai, sentiamo alle prossime. Saluto anche tutti gli ascoltoni, QRT per me. Ok, di nuovo ciao a tutti e due, alle prossime, ciao, a domani.